chiederai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai? Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi, o forse solo di guardare meglio. Riderai. Come fai a restare ancora in piedi? Cosa fai nel mio domani? Al mio domani cosa fai? Come stai? Quante volte te l'ho chiesto? Quante volte mi hai risposto con un altro come stai? Riderai fino a piangere di gusto, e non sarà mai troppo presto quando in faccia quello specchio riderai. Riderai. Ti vedrai dare fuoco alle vergogne, bruceranno come legna, ecco quanto riderai. Ti vedrai, sarà sesso divertente.